La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, caro ascoltatore di Radio 24, 16:30 primi e 54 secondi, quindi in realtà da Milano vi saluta Oscar Giannino e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, che ho, cioè radio24.it. E per intervenire oggi vi dico subito su che tema, chiedendovi, formulandovi una domanda precisa, 800 24 00 24 e il numero di telefono per intervenire in diretta, 349 238 6666, per le vostre opinioni. Oggi non stiamo sulla novità di giornata esplosa due ore fa, per i cui sviluppi vi rimando a domani, ai conti della beva dalle 10 alle 12, con me, Carlo Alberto Cannavale Caffè, Mario Seminario, Renato Cifarelli. Sapete, immagino, o se non lo sapete ve lo dico adesso, la vigilanza BCE ha negato la richiesta di proroga di altri 20 giorni per l'aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena. L'interrogativo a questo punto diventa duplice: o il governo dimissionario emana un decreto per intervenire secondo l'articolo 32,4 della BRRD. Domani vedremo di preciso di che si tratta. Nel decreto ci potrebbero essere anche altre norme sulle popolari per Bari e così via, per Veneto e Vicenza. È naturalmente una questione molto delicata se il governo dimissionario possa emanare un decreto di questo tipo, oppure quale sia l'alternativa. L'alternativa è quella di andare alla risoluzione diretta. Per il momento il Monte dei Paschi di Siena non è in condizione di risoluzione, è liquido, è in fase di early recovery, si dice dal punto di vista tecnico, non è in condizioni quindi di default in questa fase precedente, poiché ha un rilievo sistemico. Appunto, c'è un articolo preciso della direttiva europea che consente interventi di Stato in una ricapitalizzazione non necessaria secondo criteri di mercato da soggetti di mercato, ma a quel punto l'intervento dello Stato deve comunque osservare rigorosamente due principi. Allora, vediamo come si muoverà il governo, ne parliamo meglio domani mattina. Intanto, come sapete, sui mercati c'è l'effetto, perché il titolo MPS, da che si è presa la notizia, e giù per terra, era pressoché inevitabile. Mi limito a dire che questa situazione è tale quale quella di 7 mesi fa, dopo lo stress test. Si è atteso per 7 mesi, vincolando al referendum la vicenda. Ecco i risultati per quello che mi riguarda. Invece la domanda che vi faccio è un'altra, perché stiamo oggi sul merito della crisi di governo e sapete che ci sono le consultazioni in corso, ci sono le delegazioni minori oggi al Quirinale. Sapete che il totale di delegazioni che riceve il capo dello Stato Mattarella sono la bellezza di 23, e domani ci sono i partiti maggiori. Vedremo se entro fine settimana il Presidente della Repubblica cosa decide, se rinviare alle Camere intanto il governo Renzi, se procedere con un incarico, di che tipo, un governo di mandato breve tecnico per mettere a posto la legge elettorale dopo la consulta, cioè la Corte Costituzionale che si riunisce il 24 gennaio, non è affatto detto che decida il 24 gennaio, oppure altro, lo vedremo. Ma intanto la domanda che vi faccio io è relativa a uno degli due ospiti che abbiamo oggi, ed è questa: su diversi quotidiani italiani oggi autorevoli è stato illustrato nei particolari un meccanismo, per così dire, di reazione all'interno del PD, non ufficiale, al di là di quello che è avvenuto con l'intervento di Renzi in direzione. Molti articoli oggi sul tema del riemergere molto energico delle diverse correnti all'interno del PD, e la domanda che vi faccio io è questa: siate elettori del PD, questo mi interesserebbe particolarmente, o anche non lo siate, credete che oggi Renzi sia sottoposto a un'usura, a un tentativo di bloccarlo all'interno del suo partito da parte non solo della minoranza, che in realtà è esigua, e non solo dai bersaniani, bensì anche dalle diverse componenti, da Franceschini, dai giovani turchi di Orlando e Orfini, da Martina insieme ai suoi? C'è una specie di vendetta, al di là di quello che si vede, che si scatenerà all'interno del PD? Lo credete? Ecco, lo immaginate possibile che il partito possa ricominciare la sua abituale, del resto, in tutti questi anni, lotta interna a distruggere il leader che si trova in mala parata? Ecco, questa è la domanda che vi faccio. Oppure Caso contrario, se pensate che sia la solita esagerazione dei giornali, per così dire, intervenite e ditecelo, se dall'interno quanto pericolose sono le minacce per il futuro di Renzi, nella gestione di questa crisi, ovviamente. Sapete che una delle ipotesi, anche se è quella non dichiarata ufficialmente, è che Renzi resti incaricato di gestire il passaggio di qui, alle elezioni, per quanto egli abbia sempre detto il contrario, però i giornali l'hanno sempre riportata questa ipotesi a fianco di quelli che vi ho già citato. Allora, i nostri due ospiti di oggi li ho invitati appunto perché hanno scritto degli articoli che mi hanno molto colpito stamattina. Uno di questi è quello che ha scritto forse l'articolo, nel mio modestissimo giudizio, più limpido, esattamente sul tema del PD interno. Vi leggo il titolo, è dalla stampa di questa mattina: PD, patto tra le minoranze, antivoto, così Matteo si ritrova accerchiato. Bersani e D'Alema con Franceschini e Orlando si va verso un governo a guida Dem, però frutto di questa convergenza del più dei parlamentari eletti non renziani all'interno del PD. E l'autore è Fabio Martini, che è con noi. Lo ringrazio di essere con noi oggi pomeriggio. Buon pomeriggio, Fabio. Salve, salve a voi. Poi c'è un secondo ospite, perché ho letto il fondo del Messaggero stamattina firmato da Mario Aiello, dedicato a una delle arti invece più difficili, su cui lui si è cimentato mentre la stragrande maggioranza dei colleghi che seguono la politica fino al momento si è abbastanza guardato, cioè una specie di interpretazione tra il personale e il culturale di come alla fine le caratteristiche del Presidente della Repubblica, cioè Sergio Mattarella, potrebbero evidenziarsi proprio nella decisione che prenderà alla fine. Allora, siccome sono molto curioso di capire meglio quello che già Mario Aiello ha scritto, Mario Aiello del Messaggero è con noi oggi pomeriggio. Grazie di essere con noi, Mario. Buonasera a tutti. Allora, io incomincio con Fabio Martini nel leggere la consistenza che viene stimata delle diverse correnti tra i parlamentari oggi del PD, per chiedergli se si riconosce in questa fotografia. Allora, a essere in buona sostanza renziani, ricordo che tra Camera e Senato il PD ha oggi eletto sui 630 senatori, c'ha 301 deputati, sui 320 senatori c'ha 113 senatori. Ecco, la somma, che quindi fa 414, di questa somma a Renzi, come stretta osservanza, vengono attribuiti, leggo una tabella che non è della stampa, ma è del Messaggero, anch'essa, pagina 7, 66 parlamentari. Poi a Franceschini vengono attribuiti il doppio, 122, tra deputati e senatori del PD. I giovani turchi, quindi Orfini e Orlando, ministro della giustizia, 57 parlamentari. Intorno a Martina, il raggruppamento per capirci sinistra e cambiamento, il ministro Martina, altri 50 parlamentari. Bersaniani, 54 parlamentari. Intorno a Cuperlo, 10 parlamentari e poi 55 di altri. Fabio Martini, questi numeri sono attendibili secondo te? No, mi complimento e ci complimentiamo con i colleghi del Messaggero, nel senso che in queste ore, in questi frangenti, una contabilità così precisa è sempre molto difficile da fare. Perché? Ma perché non si sa chi vince, non si sa chi perde e quindi è molto fluido Il il quadro. passaggio, il quadro. Ecco. Ciò detto, la tabella pubblicata dal Messaggero è veritiera, si avvicina alla verità. Naturalmente, per renderla concreta, bisognerà vedere che cosa accadrà nei prossimi minuti, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché stiamo vivendo una fase molto tattica, come è quasi inevitabile che sia, ma anche una fase nella quale mi sembra i due schieramenti, renziani e non renziani, non si stanno dividendo come sarebbe fisiologico su linee politiche evidenti, ma su un fisiologico scontro personale. Vuole mantenere Renzi, o comunque, come dire, garantirgli un futuro, perché questo è il vero problema che angustia il Presidente del Consiglio dimissionario, cioè arrivare, come dire, in pole position nella fase che precede le prossime elezioni politiche, e chi invece intanto lo vuole, come dire, mettere da parte. Ecco, al momento non sappiamo quali linee politiche dividono i due schieramenti, né l'analisi di quel che è accaduto, perché Nei giorni scorsi è accaduto qualcosa di straordinario, di inatteso in quelle popolazioni. A fronte della più massiccia caccia al consenso mai compiuta da un Presidente del Consiglio nella storia della Repubblica, e non sto enfatizzando, se mettiamo insieme tutti quei provvedimenti che hanno nel corso di mesi interessato milioni, decine di milioni di italiani, una campagna elettorale antica con i comizi e modernissima con tutti i mezzi di informazione, ecco, tutto quello non è bastato, non è servito a riequilibrare il consenso. Ecco, di fronte a quel no così vasto che è fatto di tanti segmenti, di rancori, ma anche di disagi sociali, nessuno nell'ambito politico ha fatto un'analisi, eppure c'è in corso una divisione così forte nel PD. Tu hai scritto che c'è stato anche un tweet di risposta, in qualche modo, maniera indiretto, ma insomma, si capiva che pensava anche un po' a quello che hai scritto tu, Fabio, stamattina da parte di Franceschini, perché tu, leggo testualmente, hai scritto una novità corposa, la più pericolosa per Renzi. Il duo Franceschini-Orlando ha stabilito in queste ore un patto di consultazione con la minoranza che fa capo a Pierluigi Bersani e anche, ecco l'ultima sorpresa, con Massimo D'Alema molto attivo nella cucitura. Una sorpresa perché da anni ormai le due maggiori personalità della sinistra, PD, cioè Bersani e D'Alema, avevano rotto politicamente. Certo, è presto per capire, ma insomma, tu dici un tentativo di tenersi stretti nel coordinare al di là di Renzi, quindi fuori dall'area e dal progetto renziano, tutte queste diverse anime, si sarebbe messo in moto, tu scrivi. Sì, sicuramente è così, perché sappiamo che è così, sono in corso di contatti informali, come è naturale che sia, anche qui tra corpi, come dire, molto diversi, nel senso che quella parte del PD, mi riferisco a due ministri, Orlando e Franceschini, in questi mesi, quando è stata, come dire, dispiegata la geometrica potenza del Presidente del Consiglio, non hanno mai obiettato alcunché. E invece, diversamente, rompendo una tradizione che viene dal PC, per cui non si, una volta che si decide, un partito decide, tutti i suoi componenti sono in qualche modo legati a quella decisione, ecco. D'Alema e Bersani invece avevano, come dire, fatto una battaglia forte. Ora questi due segmenti così eterogenei si uniscono e quindi, però questo collegamento è in atto, è in corso, e anche se non è una cosa organica, perché comunque poi ci sono interessi spesso diversi, ma insomma uniti dal desiderio di frenare, come dire, una possibile rivincita addirittura immediata di un Presidente del Consiglio che ha perso una battaglia clamorosa. Mi rivolgo in questo caso a Mario adesso. Mario Aiello, tu insomma, hai scritto un pezzo che ho ammirato per l'equilibrio. A proposito di una persona molto equilibrata come Sergio Mattarella, è difficile mettere insieme un pezzo così lungo con tante sfumature. Lo hai fatto e dici: in realtà, però, lui è un personaggio. Certo, si può dire Prima Repubblica? No. Perché poi è l'autore della legge elettorale di maggior successo della Seconda Repubblica, è un uomo, tu dici, di confine, è un uomo fusion, dici a un certo punto, che ti posso garantire tutto avrei immaginato di leggere tranne che fusion. Infatti mi sono messo a sorridere, ti ho anche dato ragione, però mi sono complimentato con te, ho detto, mai avrei osato scrivere fusion di Mattarella, che insomma appare iperingessato, appare che... E invece tu sei convinto di un'altra cosa. Allora, entrando in conseguenza di quello che ci ha appena detto Fabio Martini, ti dico, secondo le coordinate di quello che ti aspetti, perché l'articolo che tu hai scritto è che cosa ci si può aspettare da Mattarella, tutto questo lo induce a fare una scelta, tra virgolette, un po' pericolosa tra le diverse anime del PD, visto che Gentiloni va meglio a Renzi, tutti scrivono così, Graziano Del Rio sì, forse, ma certo è già meno renziano, visto che Renzi lo allontanò da Palazzo Chigi. Padoan potrebbe essere l'uomo necessario, visto il decreto che forse bisogna fare per MPS. Dall'altra parte, però, è un tecnico e dall'altra ha una, per così dire, attribuita predilezione in tempi addietro, almeno per dove scriveva, per D'Alema. Fa una scelta di questo tipo oppure ne fa un'altra e dice: no, a maggior ragione nella stessa maggioranza, ma con Piero Grasso, il presidente del Senato. Che dici, Mario? Allora, io escluderei che scelga Piero Grasso come capo del nuovo governo per tanti motivi, ma non solo perché tra i due palermitani così non scorre un fluido Sì, proprio ottimale. ottimale, e naturalmente queste questioni così personali e culturali non rientrano minimamente nella scelta che il presidente si troverà a fare. E dal punto di vista così, della sintonia, naturalmente tu mi hai chiesto a proposito delle diverse anime del PD, naturalmente la sintonia di Mattarella è con Franceschini e con quel tipo, Eh sì, di storia, l'impostazione. di impostazione lì, Gli ex Margherita, dico per di più, intenderci. ex Margherita, e dico di più, chiaramente la dimensione temporale per il nuovo governo che il presidente avrebbe in mente, io credo, conoscendo così quello che ho scritto, credo che a lui piacerebbe un governo lungo fino a Sì. fine Fino legislatura. alla fine della legislatura. Quindi ci hai dato, aspetta, ci hai dato tre elementi. Grasso, c'è qualche, diciamo, vediamo, ma insomma, non facciamo finta di non sapere che tra i due non è proprio ottima la cosa. Secondo, l'area culturale di appartenenza. Tre, il presidente che dice: sì, vi vedo che volete andare a votare, ma qui la questione della legge elettorale avrà la sua importanza. E probabilmente ha la sua importanza anche poi il fatto che c'è un appuntamento internazionale per l'anniversario dei trattati di Roma, ce n'è uno per il G7 a maggio. Insomma, questi tre elementi intanto da Mariello, torniamo tra un minuto poi con alcune delle vostre iniziali telefonate. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta. Abbiamo sentito, ed è con noi qui Fabio Martini della Stampa, sul peso che ha, più di quanto non si immaginasse dopo 1.000 giorni di governo Renzi, quello delle correnti all'interno dei gruppi parlamentari diverse del PD. E dall'altra, con Mario Aiello, cosa possiamo attenderci dal profilo, dall'equilibrio che abbiamo visto in questi 2 anni d'azione al Quirinale di Sergio Mattarella? Sentiamo come la pensate intanto alcuni di voi. Antonio da Brindisi, prego. Antonio, dici. Grazie, buonasera Oscar. Buonasera. Guarda, io sono un militante del PD Sì. da quando, anzi sono un ex DS diciamo, e quindi sono poi Sì. transitato al PD. I militanti, la base ha creduto sempre in questo grande progetto culturale di unificazione. La base però. Quando dici unificazione con le altre culture, tipo Margherita e così via. Certo, Esatto, certo. Unificazione delle due culture, quella diciamo postcomunista e quella cattolica, certo. progressista, diciamo. Questo però non è avvenuto fra di noi, cioè noi siamo già una cosa unica. Nella base, appunto, dice. Io ho fatto anche l'assessore nel mio comune, a Cisternino, con il consenso unanime di tutto il partito. Quindi noi abbiamo un partito unico alla base e un partito frazionato tra i Nella militanti. gerarchia. Questa cosa io penso ci porterà alla frantumazione, Oscar. Ah. Cioè, questo odio, questo riemergere, anche l'atteggiamento verbale, no? Sì. Sono stato dalemiano da giovane, io ho l'età di Dalema. Non lo capisco più, il nostro leader massimo non so che No, cosa vuole. certo, il livello di acredine interno, devo dire, anche basta vedere i social oramai, non solo anche nella base, perché? Perché rilancia quello che vede e ascolta da parte di leader e figure diverse del partito. Quindi una voce preoccupata dal di dentro, quella di Antonio. Intanto Daniele da Verbania che dice? Buonasera Oscar. Buonasera. Dunque, io sono un elettore dei 5 Stelle, Sì. quindi di quello che succede nel PD, sinceramente, Capisco. mi interessa su certi versi, ma in questo momento qui E quindi no. cosa vorresti al capo dello Stato? Capo dello Stato vorrei che immediatamente mettesse, diciamo, al lavoro tutti i parlamentari di tutti i partiti per creare una legge elettorale giusta, equilibrata, senza aspettare la consulta, e una volta fatto questo lavoro, che si vada subito al voto, senza aspettare, senza dire che ci sono impegni istituzionali, eccetera, eccetera. Anche con Renzi, che comunque sia è addentro a tutte le questioni e può presenziare tutte le occasioni che vuole. Questo è quello che voglio io, ma anche tanti altri che ho sentito. No, ma non c'è dubbio, guarda, basta vedere sui social, sono tantissimi a dirlo, e non solo quelli dei 5 Stelle. Molti, io sono tra quelli, sostengono che tecnicamente è del tutto possibile che il Parlamento possa farlo senza dover aspettare il giudizio di costituzionalità su una legge che a quel punto verrebbe modificata. Ma concretamente chiedo, siccome è molto delicato che un capo dello Stato possa forzare rispetto alla Corte di cui siamo in attesa in queste condizioni, chiedo a Mario, c'è da attenderselo da parte di Sergio Mattarella secondo te? Una forzatura in questo senso? No? Sì. Penso che sia assolutamente impossibile. Penso che sia assolutamente impossibile, nel senso che così proprio nella grammatica costituzionale a cui Mattarella così si attiene in maniera precisissima, questo tipo di smarcature sono inesistenti. Sono inesistenti. Non fanno proprio. Diciamo che gli possiamo annettere. Non dimentichiamo che lui è diventato presidente mentre era bravo, membro della Corte. Quello stavo dicendo. Quindi è da un ex membro della Corte, non ci si può attendere una cosa simile. È irragionevole. Poi, per carità, tutto possibile. Insomma, il nostro compito è quello di richiamare chi ascolta un elemento fattuale che induce a ritenere il contrario, come hai fatto tu. La mia domanda finale a questo punto a Fabio Martini è: ma nella valutazione, in quello che sentite voi che da anni, tutti i giorni in Parlamento, auscultate il polso delle diverse forze politiche, in questo caso del PD, questa cosa può arrivare, quella che hai descritto oggi, cioè hai descritto prima, cioè la distinzione tra chi è renziano doc e il più di coloro che non lo sono, può arrivare al punto di dire appoggiamo un altro perché lo schema è che tu devi saltare davvero un giro per un po' e poi ce la vediamo al congresso, oppure no secondo te? Tutto si può dire di Renzi, ma non che non abbia dimostrato comunque capacità di leader, mentre tutti gli altri questa capacità non l'hanno dimostrata, ecco. Quindi non avranno, mi sembra. Sì, no, ma io è un fatto anche questo che stai richiamando, cioè tu prima hai detto il più di questi ministri che hanno correnti molto numerose, però sono stati muti in questi anni di Renzi, ed è un fatto oggettivo. Anche questo ritiene improbabile poi vedere che gli diano la zampata finale. Però attenzione, perché nella storia della sinistra italiana tante volte è già accaduto. Intanto io ringrazio per il contributo di ragionevolezza e di finezza di analisi Fabio Martini della Stampa e Emanuele del Messaggero. Vi do appuntamento per Decreto MPS, banche, eccetera, domani dalle 10 alle 12, Conti da Belva.